Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti e cari radioascoltatori. Bene, ci avviciniamo all'ultimo dell'anno, ci avviciniamo e si avvicina anche la cucina, si avvicinano le spese. Le spese soprattutto sono indirizzate in questo periodo come una caccia, una grande caccia alle lenticchie, al capitone. Ricordo che il capitone è la femmina dell'anguilla e ai chikidua. Questo perché? Perché nella leggenda popolare, ce ne sono tante attorno al cibo, tantissime, e sono dei portafortuna, però ce le tramandiamo da tanti anni. Anche chi non crede queste cose, quando si avvicina l'ultimo dell'anno, guarda caso, le lenticchie con lo zampone, o le lenticchie da solo, le lenticchie oggi nella cucina vegetariana o vegana, e anche il capitone che non mangia volentieri il capitone, o la femmina, lo ripeto, la femmina dell'anguilla, magari un chicco a tavola, un chicco due, lo mangia comunque. Ma perché? Perché tutto questo? Come è entrato nella leggenda? Allora abbiamo una persona che sicuramente ci spiegherà il perché. Buongiorno al professor Marino Niola. Buongiorno a voi. Professore, che succede? Perché è successo questo? Perché le lenticchie, il capitone, i chicchidua sono entrati un po' nella leggenda popolare e tutti in una maniera o nell'altra, diciamo, ne assaggiano durante il pranzo dell'ultimo dell'anno? Perché sono cibi rituali e quindi sono cibi obbligatori in un certo senso. Il Capodanno in realtà è una vigilia, questo che lo caratterizza, no? E la vigilia, proprio questo significa, lo dice la parola stessa, significa proprio vegliare ritualmente su un passaggio stagionale in questo caso, che è decisivo, che è un tornante del tempo, quello che separa l'anno vecchio dall'anno nuovo. È quella specie di, è una suspense, è l'attesa che diventa rito, e è come se noi in quel momento ci dovessimo nutrire anche della sostanza del tempo, e forse proprio per questo la condivisione del cibo diventa il simbolo unificante di questo passaggio così decisivo, e bisogna quindi mangiare delle cose speciali, che è un po' come passare un colpo di evidenziatore sul calendario, e quindi tutti i cibi che ovviamente significano l'abbondanza, significano la prosperità, che promettono bene, e non a caso a Capodanno si mangia zampone e cotechini, che il grasso è beneaugurante, è quello che scaccia le vacche magre, che tiene lontane le vacche magre, o come diceva lei, le lenticchie. Le lenticchie sono delle piccole monete, si moltiplicano, sono fatte per moltiplicare la fortuna. Fra l'altro non va dimenticato che era anche un legume a cui era attribuita già dall'antichità una valenza, una capacità nutritiva altissima. Addirittura Ippocrate, il padre della medicina occidentale, le consigliava agli uomini anziani per potenziare la virilità, cioè per avere davanti a sé ancora anni di prosperità. E poi questa idea del denaro probabilmente ha a che fare con l'uso dell'antica Roma. Nella Roma antica si usava a regalare nei passaggi stagionali una scarsella, cioè una piccola borsa di pelle, quella da moneta, dove di solito si metteva il denaro, una scarsella piena di lenticchie, con l'augurio che quelle lenticchie si trasformassero in monete. Noi abbiamo ereditato dai romani questo uso. Stessa cosa il capitone è un serpente, è un simbolo di eternità, e non a caso noi lo mangiamo in certi momenti particolari, come la notte di Capodanno, e lo mangiamo anche però alla vigilia di Natale, cioè i momenti in cui l'umanità cristiana, per esempio, festeggia la vittoria sul serpente che è la causa del peccato originale, ma che la nascita di Cristo sconfigge e quindi redime l'umanità, e la vittoria proprio sul simbolo del male. E poi a questo bisogna aggiungere anche che il serpente era considerato il simbolo dell'eternità, il cerchio che si morde la coda, no? E quindi un anno dopo l'altro. Quindi tutte queste cose insieme rendono poi così caratteristici i modi di mangiare e di alimentarsi di questi momenti di passaggio. Sono delle vere e proprie orge, nel senso letterale del termine. Nella città antica, nella polis greca di cui noi siamo figli, l'orgia era proprio questo, era il sacrificio notturno in onore degli dei, ed era soprattutto un sacrificio alimentare. Bene, io credo, professore, che veramente quest'anno ce ne sia molto bisogno per questo paese, appunto, di mangiare tante lenticchie e tante capitone, io direi proprio al paese Italia. No, mi viene da pensare che veramente è molto bizzarro che, diciamo, queste leggende abbiano bloccato i menù di quella serata, perché ovunque si va in quelle sere, in qualsiasi ristorante o nelle case, si mangia in questa maniera. Quindi tutti coloro che non credono alle leggende però si adeguano, quasi così che fosse, come posso dire, uno scacciare la sfortuna. E questo devo dire che è molto divertente. Lei parlava appunto di orgia, e in effetti questa orgia si tramanda, perché io credo che lo spreco che c'è l'ultimo dell'anno nel cibo, soprattutto in questo paese, è enorme. Io spero che quest'anno magari ce ne sia molto meno, e credo che bisogna avere oltre questi menu anche il modo per riciclare quello che rimane. Non so se lei è d'accordo. D'accordissimo, sarebbe il modo migliore per festeggiare e di rendere il sacrificio anche meno sciocco, me lo lasci dire, no? E perché poi tutti possano partecipare alla festa, perché è una festa a cui non possono partecipare tutti, è una festa a metà. Bene, io la ringrazio, professore, lei è sempre stato chiarissimo, grazie del suo intervento e di quello che ci ha detto. Alla prossima, grazie. Alla prossima, grazie. Buon anno anche a lei, buon anno. Bolle, mille bolle blu, bolle per intornarmi, bolle, mille bolle blu che volano, e volano, e volano. Buongiorno a Dadua Villa, sommelier, autrice del libro Vino Rosso Tacco 12, edizione Cairo. Buongiorno Adua. Buongiorno Davide, ben sentito, ciao. Ciao, so che sei in treno, speriamo che non cada la linea. Volevo solo chiederti questo, ma è giusto un ultimo dell'anno a tutta bolla? Ma guarda, mettere una musica più adatta, perché per me è un po' la colonna sonora, nel senso che io amo le bollicine, questo è noto a tutti, e da sempre cerco sempre di spiegare che in effetti le bollicine vanno benissimo a tutto pasto. Tra l'altro stiamo affrontando anche nella tua puntata oggi quelli che sono un po' i piatti della tavola nelle feste, e quindi ci stanno veramente bene. Parlo assolutamente di bollicine italiane in questo caso, perché insomma mi va di rispettare Charmat e champenoise, cioè metodo classico, insomma, tutte e due. Assolutamente, guarda, assolutamente, se vogliamo dare un po' quella che potrebbe essere una linea guida, io andrei dall'uno all'altro, iniziando proprio dagli entrée e finendo dai dolci, dolci classici che possono essere i nostri grandi dolci a pasta lievitata, come possono essere appunto panettone e pandoro, e lì da lì non mi muovo e dico che comunque il nostro moscato, che sia leggermente frizzante, rifermentato in bottiglia, o che sia un assifumante, è veramente la scelta ideale. Inizierei sicuramente a questo punto con un metodo Charmat o Martinotti, andrei nella zona del prosecco, se possiamo dare delle etichette, e io insomma una in particolare inizierei proprio per aprire il nostro palato con questi aromi meravigliosi che il prosecco ci regala, quindi con un Belle Caselle col fondo, quindi questi vini fra virgolette di una filosofia anche naturale, diciamo così, per poi da lì muovermi su quello che è tutto, sul classico Franciacorta e Trentino, quindi con, non so, un Franciacortino dell'azienda Arici per esempio, un dosaggio zero, uno Chardonnay 100%, per poi magari andare oltre con due grandi, parliamo di Trento DOC, e mi piace parlare delle bollicine del Trento DOC, dove possiamo avere un Altemasi Graal di Cavit, ma anche un Perle di Ferrari, quindi 100% Pinot Nero. Sono vini che comunque hanno quel perlage, quella bollicina sicuramente decisa nel bicchiere, ma mai invasiva, perché poi ecco, diciamo che con il metodo classico noi spesso abbiamo proprio questo, senza andare poi nella tipologia Satin, dove poi a chi magari preferisce un prodotto meno accentuato nella bollicina possiamo consigliare una bollicina Satin, appunto come dice il nome, Satin setoso, e quindi molto meno invasiva. Però il mio consiglio è bollicina tutto. Bene, grazie Dadua Villa, buon anno anche a te, buon anno grazie con le bollicine. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Happy New Year. Happy New Year. Buongiorno, buongiorno a Massimo Bottura. Ciao Massimo, come va? Ciao Davide, ciao a tutti, ciao a tutti. Quando si avvicina l'ultimo dell'anno io non posso che pensare al tuo roviolo, quel colpo geniale di lenticchie zampone, o anzi cotechino, allo stesso tempo. Ce l'hai ancora in carta, Massimo? Sì, ce l'ho ancora, anche se quest'anno andremo... lo porteremo oltre, lo faremo diventare un dessert, ma questa è un'altra storia. Ah, bene, bene, quindi passiamo al... Senti, ma tu qual è... Cioè... Scusa Davide, ma col tuo palato mentale, non riesci a immaginare una gelatina di cotechino e delle lenticchie croccanti che sfiorano la parte dolce? Beh sì, sicuramente stavo pensando con una spruzzata magari di cacao. Ma di cioccolato. Di cioccolato. Lenticchie, cioccolato e gelatina di cotechino. Ecco. Non è una cosa straordinaria. Certo, pensavo al cioccolato mentre tu diventa portavi... Diventa addirittura liquido, perché la gelatina miscelata ad un cacao criolla e poi sciolta nella cottura del raviolo diventa qualcosa di straordinario, diventa animale, tostato, caffè, lenticchie, mineralità, diventa... spettacolare, con un'acqua di panettone. Ah beh, insomma, allora siamo veramente a un dolce tutto natalizio. A questo punto c'è tutto. C'è veramente tutto. Il tutto di Boetti. Beh, insomma, tu subito corri a un paragone pittorico, artistico, come tuo solito. Senti, ma a questo punto su questo dolce finale fatto da cotechino, fatto da lenticchie, fatto da panettone, cosa ci mettiamo come vino? Dura, eh? No, è durissima, però non può, dai, lì ci va le bollicine, dai, chi se ne frega. Non puoi mica, se è l'ultimo dell'anno, sono tra due giorni, cosa stappi? Stappi delle bollicine, così sogni. Stai con noi in linea, perché dall'altra parte abbiamo un macellaio di Sassello, in provincia di Savona, che fa uno zampone straordinario. Devo dire che io l'ho sentito per un paio di volte, è veramente incredibile. Lui è un piccolo macellaio, appunto, ma secondo me fa dei prodotti straordinari. Buongiorno Giovanni Giacobbe. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, Davide. Senta Giacobbe, ma lei ha sentito questo raviolo che diventa con lenticchie e cotechino, diventa dolce, l'ha sentito? Giusto l'ultima parte. Ah, giusto, ecco. L'ultima parte, mi ha incuriosito una cosa notevole. Senta, ma lo zampone va ancora? Mi dica un po', cioè lo zampone la gente lo sta già prenotando per l'ultimo dell'anno, Giacobbe? Va ancora, anche se è tradizionale, proprio di Capodanno, una minima parte, facciamo la guerra contro lo zampone precotto, perché io sono tradizionalista per lo zampone pelle del maiale, insaccato e cotto. Più fresco è, più buono è. Ecco, la guerra un po' troppo, insomma, diciamo che facciamo un po' di ostruzione, diciamo così, magari facciamo di ostruzione a centrocampo, insomma, non entriamo molto duri, Giacobbe, no. Senta, ma il quanto ci vuole a preparare uno zampone? Preparare lo zampone bisogna tirare giù la pelle della zampa anteriore del maiale, perché sono tutte zampe anteriori, si leva la pelle, la si cuce, poi si prepara l'impasto. Dentro l'impasto prevalentemente ci sono polpa di testa di maiale, tessuto connettivo, grasso e cotenna, impastato con sale, pepe, spezie, con vino, anche ognuno ha la sua ricetta particolare, viene macinato ed è insaccato. Quando è insaccato è pronto da cuocere, più fresco è, più buono è. Massimo, hai sentito? Io sono d'accordo, In questa Italia del cibo. Sono d'accordo, perché in questi casi, Natale, l'ultimo dell'anno, devi perderti nella nostalgia. Capito? Perché ci sta di perdersi nella nostalgia. Perché sono cose naturali, sono giorni particolari. E quando tu. E la cosa fondamentale, quando lui dice lo zampone fresco, lì tu sai che se hai questo zampone e l'artigiano ti ha costruito e ti ha preparato uno zampone fantastico, quando è fresco, tu senti tutto, che sia buono o cattivo, amplifica la percezione del palato. Quando è precotto ha già perso tante cose, tante proprietà organolettiche che invece quando è fresco tu percepisci, e soprattutto la collosità. Questa è la cosa fondamentale. Sì, infatti in bocca. La collosità è la prerogativa assoluta di questo piatto. Eh beh, certo. Ma certo, volevo avvisare sicuramente i vegetariani o i vegani che sono in ascolto, non scappate, perché poi parleremo anche di voi, perché avrò anche degli ospiti che parleranno appunto di cucina vegana e di cucina vegetariana, quindi non scappate terrorizzati dall'ascolto. Ma io voglio tornare a Giacobbe perché volevo capire chi è ancora il consumatore, Giacobbe, che viene a chiedere lo zampone fatto in questa maniera. Ma quelli che amano e quelli che amano il ricordo, e che col ricordo si ricordano la gioventù, si ricordano le persone che non ci sono più, e si innamorano, e le persone romantiche, e i tradizionalisti. Mancano i giovani, dai. Massimo, mancano i giovani, no, però. No, guarda, io Giovanni, guarda che il tu non sai quanti giovani. Ieri sera avevamo un tavolo da 18, un tavolo di 18 di ragazzi che avranno avuto tra i 28 e i 35 anni. Hanno mangiato il piatto hanno scelto tutti, perché hanno fatto un menù degustazione, il piatto da Modena a Mirandola. Cotechino, sbrisolona e zabaione all'ambrusco. Quindi, capisci? Cioè, l'hanno proprio richiesto. E questo sai perché? Perché ti ricordi il cotechino in galera. Solo certo, con un'evoluzione, è un'evoluzione importante. E perché lo zabaione diventa uno zabaione acido con l'ambrusco, e quindi ti pulisce il palato, ti aiuta a evolvere. Ma volevano il cotechino. Erano tutti giovani, quindi non sottovalutiamo i giovani. Ma io voglio tornare a Giacobbe, poi anche a Massimo, sulle lenticchie. Ecco, lenticchie ce ne sono tante sul mercato, anche di importazione. Volevo chiedere prima a Giacobbe, lui cosa consiglia con il suo zampone, e poi a Massimo proprio sulle lenticchie. Con il nostro zampone da diversi anni abbiniamo una lenticchia di Ustica che io l'amo molto, devo dire che l'amo molto. Che cosa c'ha di particolare questa lenticchia? Ma sarà la terra vulcanica, sarà adesso bene, non lo so, piccolina, non deve essere messa a bagno come tutte le lenticchie buone italiane, che ce ne sono ovviamente tante altre lenticchie abruzzesi o altre o di altre regioni. Però, non so, questa terra vulcanica mi dà qualcosa di diverso. Massimo. È molto buona, l'ho sentita anch'io, è buonissima. Ma anche Castelluccio, anche col fiorito. Noi, sai cosa facciamo, Davide? Facciamo bollire la lenticchia, poi la disidratiamo, poi la friggiamo. Sai che cosa esce? Esce questa lenticchia pop, che ti scoppia... E ti scoppia nel palato e diventa croccantissima, come un popcorn di lenticchia. Ma se tu la metti a fianco di una salsa di lenticchie, ti sembra di mangiare delle lenticchie croccantissime e che ti esplodono nel palato. Quindi, è una cosa incredibile. Ricorda il popcorn, insomma. Esatto, ricorda il popcorn. È nato tutto così, facendo appunto questa riflessione. Quindi misceli le due cose. Dentro al raviolo, di cui ti ho parlato all'inizio, ci vanno queste lenticchie croccantissime. Giacobbe, che differenza c'è tra il cotechino e lo zampone? Il cotechino è staccato in un budello, che solitamente è un dritto bovino o anche nel torto bovino, e lo zampone è staccato in questa pelle di maiale. Io non faccio, quando faccio gli impasti, non faccio nessuna differenza, nel senso che l'impasto del cotechino e l'impasto del zampone sono gli stessi, perché si cerca ovviamente di dare il massimo. Quando si raggiunge, secondo me, ma modesto parere, quello che ritengo il massimo, non lo cambio. Ci possono essere altre alternative, altre realtà che magari il cotechino lo considerano meno pregiato, ma non è il mio caso, e non penso sia il caso di tutti gli artigiani italiani. Beh, sto pensando che io devo dire, lo devo confessare, alle lenticchie preferisco il purè di patate, e il purè di patate mi ricorda Bottura, perché mi ricorda un purè che poi mi riporta anche in Francia, cioè ci sono 3 o 4 chef al mondo che fanno un purè che secondo me è da urlo. Massimo, questo purè è buono. Perché noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo riflettuto su quello che è una cosa mitica di Robuchon. Esattamente. Però abbiamo cercato di portarlo addirittura ad un altro livello, nel senso che l'abbiamo portato facendo percepire, e tu l'hai sentito, no? Subito nel palato, questa sensazione delle campagne e dell'Italia tutta, perché quando usi un olio d'oliva straordinario, dopo aver montato il purè e lo monti fuori dal fuoco con questo olio d'oliva, il purè si gonfia e percepisci tutti i retrogusti di un grande olio d'oliva. Noi in questo caso abbiamo usato, nel tuo caso abbiamo usato un olio d'oliva di Valentini. Siamo al top. Posso dire una cosa sul cotechino? Certo. Io quando noi prepariamo il cotechino a casa della Lidia in campagna, noi maciniamo tantissima cotica dentro, perché quindi, per me è la cosa fondamentale, che dà la collosità, questo senso di gelatinosità, certo, di collosità, perché è una cosa che, non so, mi fa impazzire. Quindi io aggiungo tanta cotica dentro. Bene, allora io credo che anche su questi piatti, chi si sta preparando al cenone, avete sentito già alcune cose sul purè, avete sentito le differenze sul cotechino, lo zampone. Credo che su questi piatti, come diceva prima anche Massimo Bottura, secondo me le bollicine vanno sempre bene, quindi le bollicine che siano di italiane, ma io direi anche metodo Charmat o metodo classico, però anche francesi, perché no? Perché altrimenti non essere nazionalisti, al massimo poi cadiamo nello stesso errore che cadono i francesi con i nostri prodotti, no? Largo anche a bollicine che arrivano dalla Francia, perché qualche volta sono molto molto interessanti. Grazie a Massimo Bottura e a Giovanni Giacobbe, buon anno a tutte e due. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Continuiamo questo viaggio tra lenticchie, chicchidua, capitoni. Ebbene, sono i cibi che, come ci ha spiegato poco fa il professor Marino Gnola, sono un po' nella leggenda, sono nella tradizione e sono lontani nel tempo da cui sono partiti, e tutti hanno un significato, però ormai sono diventati anche, diciamo, un menù non dico prescritto, ma in largo uso durante il pranzo dell'ultimo dell'anno, e quindi diciamo che la leggenda ce li ha fatti diventare un qualcosa ormai di nostro. Io credo che molti non è che mangiano lenticchie oppure assaggiano il capitone alla fine, prima di mezzanotte due chicchi, o dopo mezzanotte due chicchi due, per dire che portino fortuna. Ormai così è un rito ripetitivo, ma sicuramente ha ancora molta molta consistenza. Come ho detto prima, che abbiamo sentito Massimo Bottura che ci ha parlato di questo raviolo fatto di lenticchie e zampone, addirittura portato al dolce per fine pasto, ho detto che avrò avuto anche un ospite che ci parlerà di una cucina, diciamo, che sta sempre più emergendo e che deve avere il giusto spazio, che ovviamente l'ultimo dell'anno non userà lo zampone, non userà il cotechino, ma sicuramente avrà altri piatti. Allora io saluto Simone Salvini. Buongiorno Simone. Buongiorno Davide. Buongiorno. Saluto a tutti. È uno chef che, diciamo, uno chef vegano tra i più noti. Allora ti chiedo, Simone, tu l'ultimo dell'anno hai preparato un pranzo, prepari un pranzo, oppure quale ricetta ci puoi consigliare? Beh, più che ricette, Davide, ti consiglio degli ingredienti. Quindi certo, tu prima hai parlato di raviolo fatto con lenticchie e zampone. Io ti consiglio di fare ad esempio un raviolo composto da lenticchie e mandorle, certo, se vogliamo rimanere in tema. Certo, perché certo. Più che ricette, io consiglio di magari di inserire anche all'interno di queste festività degli alimenti che provengono dal mondo dei vegetali, senza per forza imporli. Certo. Magari possiamo fare un pranzo, una cena, delle feste, con magari qualche preparazione addirittura vegana. Però più che ricette io consiglio di utilizzare prodotti nostri del territorio, insomma. Ecco, dacci anche qualche altro esempio di questo genere, secondo me è importante per i nostri radioascoltatori. Certo Davide, io do molta importanza in questa fase anche della mia vita professionale, ad esempio alla frutta secca. Come tu sai, dalla frutta secca possiamo fare degli ottimi latti che poi ci possono servire per fare besciamelle, per fare delle fondute leggere, per fare delle creme dolci. E ultimamente, come sai, si sta sviluppando anche una branca che utilizza ad esempio gli anacardi, la mandorla, le noci per ottenere anche dei formaggi, quindi dei prodotti fermentati che assomigliano molto nella consistenza alla ricotta o un formaggio fresco, con dei valori anche nutrizionali molto importanti, perché la frutta secca è una miniera di sostanze nutritive, dalle vitamine alle fibre, anche alle proteine. Quindi si potrebbe sicuramente inserire la frutta secca all'interno di queste occasioni, insomma. Oltre alle verdure. Tra l'altro la frutta secca è usata molto nei dolci, è sicuramente anche una tradizione, diciamo, austriaca tedesca, questa della frutta secca, che dà anche molta sostanza, perché dà anche molto vigore la frutta secca, se non erro, Simone. No, hai detto delle cose giustissime. E la frutta secca, se non sbaglio, Davide, era mangiata tantissimo anche dai nostri contadini durante la loro vita nei campi. Si portavano dietro un sacchettino con un misto di frutta secca, soprattutto noci, e anche questa pratica, insomma, contribuiva a dar forza, a dar vigore a queste persone che stavano ore e ore a lavorare sotto al sole in condizioni, direi, insomma, abbastanza ardue. Ecco, rimani con noi, perché ora vado a Codigoro, provincia di Ferrara, alla capanna di Eraclio, un posto molto noto per l'anguilla e di conseguenza anche per il capitone. Buongiorno Maria Grazia Soncini. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Senta, ci spiega la differenza, cioè il capitone è la femmina dell'anguilla? Sì, che raggiunge diciamo la maturità sessuale dopo i 10 anni. È l'anguilla che vorrebbe fuggire e andare nel Mar dei Sargassi, ma viene catturata e quindi arriva sulle nostre tavole. Una parte viene catturata, una parte ovviamente riesce a fuggire. Ed è un'anguilla oltre il chilogrammo. Senta, che differenza sulla carne, ecco, per quanto riguarda la cucina, tra l'anguilla e il capitone, ecco, sono carni leggermente diverse tra queste due, diciamo, specie, queste due varietà? Diciamo il peso, la struttura, l'età determinano ovviamente una consistenza diversa. Da noi diciamo il capitone o l'anguilla così grossa si consuma, ma noi preferiamo le anguille un po' più piccole, più magre. Però questa è un'anguilla che è adattissima per fare la marinata, per esempio, perché regge ovviamente dopo la cottura sugli spiedi, regge la marinatura con l'aceto, quindi la carne più robusta si mantiene con una buona textura, ecco, alla fine. Ecco, lei l'ultimo dell'anno come la prepara? Cioè nel suo menù, lei è aperta l'ultimo dell'anno? A pranzo. A pranzo l'ultimo. Sì, c'è ormai, noi chiudiamo la sera e apriamo il primo dell'anno e l'ultimo dell'anno a pranzo, e devo dire che ormai c'è una clientela consolidata che lo festeggia sia diciamo il 31 che il primo qua, sono clienti affezionatissimi. Non manca l'anguilla marinata nell'antipasto, perché è una tradizione, è un portafortuna, quindi la mettiamo. Poi noi abbiamo altre preparazioni di anguilla, abbiamo quella, diciamo, siamo di tradizione di Goro, e c'è l'anguilla al ristorante qua, prepariamo quella Rossi Numad, che è un'anguilla sugli 8 etti, scottata prima sulla brace, tagliata a rocchi e poi steccata con aglio e rosmarino e ripassata in forno in modo che perda buona parte del grasso, servita con della polenta. Però la tradizione nostra della zona, abbiamo Comacchio vicino. Comacchio ha l'anguilla, quella buonissima, cotta con le verde, quindi un abbinamento col vegetale, ed è proprio un piatto della tradizione. Beh, rimanete con noi tutte e due, perché ora, visto che ci avviciniamo all'ultimo dell'anno, un augurio. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Wash my sins away. Bene, che sia veramente un giorno felice, perché ce n'è veramente bisogno in questo momento, sia in Italia che nel mondo. Ma torniamo a Simone Salvini. Simone, tu sei aperto nel tuo ristorante l'ultimo dell'anno? Sì, certo, il mio ristorante a Roma è aperto e credo che sia una serata all'insegna della festa. Hai detto che abbiamo bisogno tutti di bene, spero che quella serata, insomma, si stia tranquillo. Possa esprimere un po' di questo bene di cui abbiamo davvero tutti bisogno, animali inclusi per me. Certo. Ci dai un'anticipazione di alcuni piatti? Senti, noi, Davide, per quella serata percorreremo due strade quasi parallele. Una strada è all'insegna della tradizione mediterranea, quindi proporremo dei piatti vegani che però prendono spunto dalla tradizione quella convenzionale, quindi faremo delle lasagne al ragù ovviamente fatto di vegetali, prepareremo anche delle crespelle, degli arancini di riso, quindi creeremo una linea assolutamente rassicurante che è quasi molto simile nelle forme, anche nelle consistenze alle ricette che puoi trovare in una trattoria o in un ristorante tipico di Roma. Però, come ti dicevo prima, c'è anche poi l'altra strada che è fatta più di creatività, e quella serata lì sarà caratterizzata da preparazioni tipiche della cucina vegana creativa. Tanto per farti un esempio, creeremo anche delle insalate di cereali provenienti da mondi diversi, continenti diversi, quindi un'insalata con pseudo cereali come quinoa abbinati al grano saraceno e al miglio, ad esempio. Prepareremo dei carpacci, ad esempio con il sedano rapa, la zucca gialla, quindi carpacci fatti con della verdura tipica della stagione in cui siamo, ovviamente carpacci fatti qualche ora prima, quindi conditi con l'aceto di riso oppure il succo di limone, che hanno una consistenza molto interessante che richiama un po' i carpacci, quelli almeno nella consistenza, non nei colori, non nel sapore, ai carpacci quelli classici. Poi useremo molti legumi, faremo sia ricette… Quindi anche lenticchie? Le lenticchie sì, però la particolarità del nostro locale per quel giorno, faremo delle lenticchie sia all'orientale, quindi utilizzando il latte di cocco anziché l'acqua o il brodo vegetale, sia le lenticchie, quelle nostrane, con una goccia di pomodoro e poi del brodo leggermente speziato. Quindi faremo legumi anche cotti con frutta secca, come dicevo prima, anziché l'acqua. Faremo i ceci cotti con un latte di nocciole. Ti assicuro, Davide, si fanno delle scoperte davvero interessanti. No, ma io con te ho scoperto la maionese fatta con il latte di mandorle, e quindi che era veramente speciale. Quindi non mi stupisco di questo, non mi stupisco assolutamente. Ma pensa, Davide, che adesso quella maionese lì l'ho trasformata e la sto facendo in questo periodo con il latte di mandorla fatta crudo. Quindi non faccio neanche più bollire il latte di mandorla. Ma frullo delle mandorle integrali, quindi con la pelle, e poi questo latte molto concentrato lo faccio poi montare con una componente grassa tipo olio extravergine di oliva o altri grassi, e ti assicuro che è addirittura superiore rispetto a quella che ti ho fatto assaggiare qualche anno fa. Bene, torniamo a Maria Grazia. Maria Grazia, l'anguilla con cosa la serve? Con cosa viene servita di solito? Qual è l'accostamento migliore per l'anguilla? Diciamo l'anguilla, quelle che hanno cotture in forno, quella con la verza, quella in orotti in umido, il brodetto di anguilla, quindi ho l'anguilla Bagdasan, che queste ultime due preparazioni sono quelle con pomodoro e aceto, vengono accompagnate da della polenta. Noi qui nel ristorante a Codigoro siamo di tradizione del delta del Po del Nord, quindi la polenta per noi è bianca, però per esempio a Comacchio la polenta è gialla, viene servita brustolita. Per quanto riguarda invece l'anguilla alla griglia, cioè l'anguilla tradizionale che viene spaccata e cotta sulla griglia, quindi quella più sgrassata, quella viene accompagnata tradizionalmente con del radicchio verde amaro, e metto anche della cipolla. La tradizione è questa, condito con un aceto di vino rosso, un aceto abbastanza importante. Bene, io ringrazio sia Simone Salvini che Maria Grazia Soncini. Abbiamo sentito appunto menù completamente diversi, ma che rientrano sempre nella tradizione, nella leggenda, questa leggenda che rimane anche bello, secondo me, avere delle leggende e appunto poter mangiare così anche nel nome di un passato, di una storia che ci portiamo dietro, che ci portiamo anche dentro. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a tre giorni dall'ultimo dell'anno, dal grande cenone. Abbiamo parlato a lungo con il professor Niola sul capitone, il perché del capitone, perché viene così tanto utilizzato l'ultimo dell'anno soprattutto da chi crede appunto nei portafortuna o gli piace così far contenta la leggenda. Ma diciamo che nel napoletano il capitone è molto presente nei pranzi dell'ultimo dell'anno, quindi è molto amato. Vero, Antonio Tubelli? Sì, hai ragione, Davide. Il capitone è uno dei piatti essenziali per un Natale napoletano. Senza il capitone è difficile identificare il Natale napoletano. Senti, ma anche l'ultimo dell'anno, non solo il Natale, perché mi risulta che sia... No, è chiaro, anche l'ultimo dell'anno, perché interpreta anche la parte grassa, diciamo, dell'opulenza alimentare, sì. Ma tu, oltre che essere un grande storico della cucina napoletana, sei anche un grande cuoco. Allora, come lo cuciniamo questo capitone? Diciamo c'è il modo classico di friggerlo, questo lo si fa diciamo agli inizi della festa, prima della vigilia del Natale, il 23, si incomincia a friggere il capitone, come se noi lo addomesticassimo, nel senso che poi ci seguirà durante tutte le feste e chiudere la sua vita all'ultimo dell'anno. Quindi segue un po' l'insalata di rinforzo, Davide, sono i due simboli del nostro Natale, diciamo la sua morte naturale è quella fritta. Poi si possono fare tante altre interpretazioni, però bisogna avere un po' più di aria disponibile, perché i grassi che possono bruciare del nostro capitone possono determinare delle situazioni ambientali non molto piacevoli, ecco, questo è. Ci siamo capiti, insomma siamo vicino ai fagioli, diciamo, siamo molto vicini agli effetti dei fagioli. Ma volevo chiederti come viene servito, fritto d'accordo, ma con cosa? Con l'insalata di rinforzo, con l'insalata di rinforzo o con la torsella che viene saltata in padella con olive, capperi, pinoli tostati e uva passa. È una delle due preparazioni classiche di accompagnamento al fritto, sono o l'insalata di rinforzo o la torsella cosiddetta affogata, che appunto viene fatta con olio, aglio, uva passa, pinoli tostati e olive. Ecco Antonio, rimani con noi perché ora facciamo un giro del mondo, andiamo da un amico, andiamo da Cumalè, al secolo Vittorio Castellani, grande esperto di cucina etnica. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Davide. Senti, siccome diciamo ci avviciniamo all'ultimo dell'anno e le lenticchie appaiono un po' ovunque, diciamo che le lenticchie sono tipiche nelle cucine tunisina, marocchina. Ecco, ci vuoi parlare un po' di qualche piatto particolare, diciamo, di quei paesi a base di lenticchie? Beh, le lenticchie entrano nei piatti della cucina delle feste di molte tradizioni del Mediterraneo, ma non solo, sono molto presenti anche in India, nei dal e nelle preparazioni di altri continenti, soprattutto in America Latina. Però rimanendo nel Mediterraneo, le lenticchie trovano spesso, diciamo, una loro applicazione nelle zuppe. Zuppe che poi vengono aromatizzate, ad esempio in Grecia una zuppa molto curiosa si fa aggiungendo succo di limone a fine cottura oppure un cucchiaio di aceto rosso, quindi l'agro si sposa molto con le lenticchie, le spezie poi non mancano mai nelle lenticchie ma in generale in tutti i legumi, e la spezia principe è il cumino che ha la proprietà di favorire la digestione e di contrastare la sovrapproduzione di gas intestinali, quindi per chi soffre di aerofagia abbiamo anche un antidoto che ci ha insegnato la tradizione indiana. Come nella nostra... Prego. No, stavo dicendo che questo qui è un consiglio, un buon consiglio, vero Tubelli, è un buon consiglio anche per questi piatti. Anche l'utilizzo del limone favorisce l'assimilazione del ferro, Vittorio, torno a te che stavi finendo il discorso. Dicevo che in generale le lenticchie insieme ad altri legumi, principalmente i ceci, se rimaniamo nell'area mediterranea, rappresentano così un piatto molto importante nella cucina delle feste. Se siamo nell'arco, diciamo, geografico del Medio Oriente, del Nord Africa, dove la tradizione cristiana è una tradizione residuale, più si parla più così di tradizione islamica e quindi di precettifica religiosa islamica, allora in questi paesi diverse festività si cucinano piatti, dicevo, zuppe anche nel mese di Ramadan, la harira, la zuppa del Ramadan, che è proprio il piatto simbolo della cucina marocchina, viene servita anche per strada quando si rompe il digiuno, quindi all'imbrunire. E così, proprio per il loro valore energetico ricostituente, sono diventate un po' il cibo dei poveri, ma arricchite, colorate con le spezie, soprattutto con lo zafferano, che al colore dell'oro entra in molti piatti delle festività, o quando non si ha i soldi per lo zafferano, la curcuma, che comunque è una spezia medicinale perché fa molto bene al nostro fegato. Senti Vittorio, ma diciamo che in queste cucine mediterranee non c'è questa simbologia che ha per noi la lenticchia, che ricorda delle piccole monetine, quindi un portafortuna di soldi? Sono considerate una ricchezza e quindi sono di buon augurio. Non c'è la simbologia della moneta, ma sicuramente della ricchezza e dell'abbondanza, così come il melograno nella tradizione ebraica. Quindi sì, è un'altra forma di valorizzarle. Certo. Alle lenticchie, ai legumi, alle fave e ai ceci, appunto, che sono più tipici della tradizione mediterranea, invece fanno il verso i fagioli, che arrivano dall'America Latina, e qui di nuovo tanti piatti festivi come la feijoada paulista, piatto nazionale del Brasile, un tempo piatto degli schiavi, perché insieme a questo feijão mulatinho, fagiolo nero, o i moros cristianos, ancora la tradizione caraibica, fagioli rossi serviti o neri serviti con il riso, proprio a disegnare un po' questa mappa geografica anche colorata del bianco e del nero, dell'incontro delle diverse culture. Quindi il fagiolo sta, diciamo, all'America Latina come le lenticchie, i ceci o le fave stanno al Mediterraneo, certo, nelle cucine delle feste. Tubelli, volevo ricordare questo, oltre, diciamo, il capitone, qual è il piatto dell'ultimo dell'anno? C'è qualche cos'altro che viene servito, diciamo, come rituale dell'ultimo dell'anno? L'ultimo dell'anno, il grande rituale, o un grande timballo come primo piatto, quindi ritorniamo alla grande opulenza e alla soddisfazione dei sensi gastronomici più complessi. Un grande timballo, che è uno dei piatti più ricchi con i quali si può presentare la pasta, è come un piatto di secondo, come si usa dire nei grandi cenoni, un grande arrosto o di maiale o di tacchino o di cappone. Bene, quindi l'opulenza dell'ultimo dell'anno. Allora siamo arrivati in fondo a questo viaggio, mancano 3 giorni all'ultimo dell'anno, e a me non resta che fare gli auguri sia a Antonio Tubelli che a Vittorio Castellani, però a tutto il pubblico dei nostri radioascoltatori, e io ve lo faccio in musica. Happy New Year. Gastronata vi dà appuntamento al prossimo anno, vi auguro di nuovo un felice fine anno e un bellissimo 2015, ci risentiremo appunto nel nuovo anno. Tanti auguri da Davide Paolini.